Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Slitta alle 22 il Consiglio dei Ministri su autostrade, sul tavolo l'ipotesi commissariamento, la conferma dal Vice Ministro 5 Stelle Cancelleri. A Pozzallo altri 11 migranti positivi tra i 60 asiatici sbarcati ieri, ancora attesa per la seconda nave quarantena e oggi nuovo DPCM, misure fino al 31 luglio. Le mani dell''Ndrangheta sui fondi contro l'emergenza Covid, 8 arresti in Lombardia. Negli Stati Uniti, dopo 17 anni, la Corte Suprema autorizza una esecuzione federale. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. È slittato dunque a questa sera il Consiglio dei Ministri che deve affrontare il dossier autostrade. Il Presidente del Consiglio Conte terrà una informativa, il Governo dovrà valutare se attivare la procedura di revoca nei confronti di Aspi controllata da Atlantia della famiglia Benetton e nelle ultime ore si fa strada l'ipotesi di un commissariamento. Un Consiglio dei Ministri che slitta alle 22 che è sintomatico delle divisioni nella maggioranza. Il Premier Giuseppe Conte vuole Benetton fuori da Autostrade per l'Italia, una scelta che ricompatta anche i mugugni nei 5 Stelle. Il Premier chiede quindi una decisione a tutto il governo, ma qui entrano in gioco le divergenze, la possibile conta nell'esecutivo. Italia Viva è contraria alla revoca perché rischia di diventare un boomerang, così la ministra Teresa Bellanova. Ma se il governo rischia, questo non lo so. Quello che so è che noi su questo tema abbiamo una posizione molto chiara. Bisogna avere la capacità di negoziare in nome dell'interesse generale, non di rispondere con atti propagandistici che da circa 2 anni non portano ad alcuna decisione. Una soluzione per Matteo Renzi potrebbe essere l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti in Aspi, di fatto una nazionalizzazione di autostrade. Il PD potrebbe invece scegliere la linea attendista, ovvero il commissariamento della società, di fatto quindi rimandare la decisione. Intanto il presidente di edizione Gianni Mion sottolinea da parte dei Benetton nostro dovere difendere Atlantia e Aspi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre oggi il governo presenta alle Camere la nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza che integra il DPCM in corso di validità e lo proroga al 31 luglio con tutte le misure di contrasto al coronavirus. Ecco dunque che cosa cambia e che cosa invece rimane uguale, come per esempio il lavoro a distanza prorogato almeno fino al 31 luglio. Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento di 1 metro, igiene delle mani e sanificazione dei luoghi di lavoro, questi pilastri della prevenzione sanitaria che resteranno nel nuovo DPCM, il provvedimento che proroga al 31 luglio le misure di restrizione contenute nel DPCM dell'11 giugno e che verrà presentato dal Ministro della Salute Speranza questa sera alla Camera. Diversa invece la proroga dello stato di emergenza, probabilmente al 31 ottobre, che il governo dovrebbe presentare nei prossimi giorni e che continua ad alimentare polemiche. Tra le misure confermate lo smart working, la possibilità di incentivare le ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, il controllo della temperatura negli uffici e nelle attività commerciali, il divieto di ingresso per passeggeri provenienti da paesi inclusi in una black list, per ora sono 13 ma il numero potrebbe aumentare, mentre slitta al 31 luglio la riapertura delle discoteche e l'organizzazione di fiere e congressi. Tra le novità, per chi viaggia in aereo dal 15 luglio potrebbe tornare la possibilità di imbarcarsi con il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere dovrebbe infatti essere eliminato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto ancora in crescita a livello globale i contagi, oltre la metà dei nuovi casi di coronavirus si concentra tra Brasile e Stati Uniti. Troppi paesi vanno verso la direzione sbagliata. A sottolinearlo il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che ha aggiunto: non ci sarà un ritorno alla normalità nell'immediato futuro. Intanto negli Stati Uniti continua l'impennata di contagi, anche in California, dove il governatore Newsom ha deciso di richiudere bar, ristoranti, palestre, parrucchieri e chiese. Inoltre due dei più grandi distretti scolastici, quello di Los Angeles e San Diego, hanno annunciato che le lezioni si terranno online almeno fino alla fine del 2020. L'America Latina ha superato nel frattempo quella del Nord per numero di vittime. Il Brasile si conferma secondo nel mondo dopo gli Stati Uniti. Nuovo focolaio a Tokyo, in Giappone, dove dopo il quartiere a luci rosse l'attenzione è rivolta ora a un teatro cittadino dove sono risultate positive 30 persone. Record di casi in Israele, tra le città più colpite Gerusalemme e Tel Aviv, e si profila la necessità di un lockdown nazionale. In Europa, infine, forte ripresa dei contagi nei Balcani con i governi che reintroducono restrizioni già abolite. Accelera intanto in Australia la procedura per il nuovo vaccino contro il Covid-19 denominato S-Spike. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Italia oggi altri 11 migranti risultati positivi al Covid, parte del gruppo di 60 asiatici approdati ieri a Pozzallo. Per quelli sistemati ad Amantea in Calabria dopo le proteste, la ministra dell'Interno Lamorgese ha detto: non vogliamo gravare sulle comunità, promettendo a breve una seconda nave quarantena. Preoccupano però anche gli arrivi di migranti via aerea e via terra. Prima gli sbarchi a Lampedusa, poi le proteste in Calabria per 13 migranti positivi. L'arrivo dei migranti allarma il Viminale, ma quello che preoccupa non sono tanto i numeri in sé, quasi 9.000 arrivi nel 2020, tre volte quanti arrivarono nello stesso periodo 2019, tuttavia la metà che nel 2018, ma la possibilità che queste persone possano essere veicoli della pandemia. Non vogliamo gravare sulle comunità, ha sottolineato Lamorgese dopo le proteste ad Amantea, quindi si pensa alle navi quarantena, come il traghetto attualmente ancorato a Porto Empedocle, il Moby Zazà. La concessione è in scadenza ed è stata prorogata per altri 10 giorni, al costo di 1,2 milioni di euro più IVA. Le caserme costerebbero molto meno delle navi quarantena, ma la popolazione è contraria. E non c'è soltanto il mare, preoccupano gli arrivi di migranti via aerea e quelli via terra dai Balcani, dove l'epidemia ha ripreso a correre, e dai paesi dell'est, da dove arrivano quasi quotidianamente autobus di badanti che lavorano in Italia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, nuovo scontro tra Cina e opposizione democratica ad Hong Kong. Pechino ha giudicato una grave provocazione le primarie tenute a Hong Kong nel fine settimana dal fronte democratico in vista delle elezioni di settembre a cui hanno partecipato 600.000 persone. L'ufficio di collegamento di Pechino nell'ex colonia britannica ha parlato di grave provocazione contro l'attuale sistema elettorale. L'Iran ha giustiziato la settimana scorsa un uomo condannato a morte per aver condotto attività di spionaggio da parte dell'americana CIA. Lo ha reso noto poco fa il portavoce del Ministero della Giustizia. Si tratta di Reza Asghari, un iraniano che aveva lavorato alla divisione aerospaziale del Ministero della Difesa. Avrebbe poi venduto informazioni alla CIA. E ora andiamo proprio negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema americana ha dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003. Ultima esecuzione nel 2003, ora dopo 17 anni di moratoria di fatto, la Corte Suprema ha dato il via libera alla richiesta dell'amministrazione di ripristinare la condanna a morte federale. I giudici costituzionali hanno deciso di non intervenire sul ricorso presentato da 4 detenuti federali nel braccio della morte, che potranno essere giustiziati tra luglio ed agosto. Tra loro c'è anche Daniel Lewis Lee, suprematista bianco che nel 96 in Arkansas ha sterminato un'intera famiglia, padre, madre, figlia di 8 anni. Nel 72 la pena capitale federale era stata di fatto messa al bando dalla Corte Suprema, poi era stata reintrodotta 16 anni dopo, applicata in casi straordinari tra cui l'attentato alla maratona di Boston. Di fatto dal 63 ad oggi sono stati condannati a morte dalle autorità federali soltanto 3 detenuti e dal 2003 ad oggi il governo centrale aveva applicato una moratoria di fatto. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Con la cronaca veniamo in Italia. Ha ucciso la madre e il padre un trentenne fermato ieri sera a Collegno nel Torinese in stato confusionale. Lo hanno accertato i carabinieri che lo hanno a lungo interrogato. L'uomo ha confessato, avrebbe usato un coltello da cucina per colpire la madre e il padre di 60 e 69 anni dopo un litigio, sembra per futili motivi. E ora l'operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla DDA di Milano. 8 gli arresti tra i membri delle cosche di 'Ndrangheta che cercavano di infiltrarsi anche sui fondi anti-Covid. Erano contributi a fondo perduto stanziati per far fronte alla pandemia, ma secondo gli investigatori sono finiti nelle mani dell''Ndrangheta. 8 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta della DDA Meneghina. Pesantissime le accuse. Associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. In 4 sono finiti in carcere, in 4 ai domiciliari, sequestrati beni, tra cui aziende, e 7,5 milioni di euro. Stando alle indagini, Francesco Maida, accusato di essere collegato al clan crotonese dell''Ndrangheta capeggiato da Lino Greco di San Mauro Marchesato, avrebbe ottenuto almeno 45.000 euro di fondi anti-Covid per una delle sue società intestate a prestanome, attestando un volume d'affari non veritiero e fondato sulle false fatture. Non solo, l'inchiesta ha portato a galla una complessa frode all'IVA nel settore del commercio di acciaio, con fatture false attraverso società, anche all'estero, intestate a prestanome. Le imprese erano di fatto gestite da affiliati al clan che fa capo a Lino Greco, contestato inoltre l'autoriciclaggio per 500.000 di euro attraverso conti anche in Inghilterra e Bulgaria. Nelle intercettazioni ambientali si sente Maida parlare in casa con un altro affiliato mentre puliscono le armi e si assicurano di non avere colpi in canna. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per lo sport, il calcio, nell'ultima gara della 32esima di Serie A, l'Inter ha battuto ieri sera per 3-1 in rimonta il Torino a San Siro, agganciando la Lazio al secondo posto a 8 punti dalla capolista Juventus. Stasera alle 21.45 torna di nuovo, come di consueto, l'anticipo della 33esima giornata con Atalanta-Brescia. Ne parleremo ancora più avanti. 13.11 minuti, facciamo un piccolo break. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo da due studi, uno italiano, uno del King's College di Londra, che a proposito del coronavirus ci danno una brutta notizia, perché gli anticorpi che dovrebbero renderci immuni in realtà potrebbero essere la causa delle seconde infezioni, ancora peggiori della prima. Vedremo cosa c'è di acclarato in queste due scoperte. 349-238-6666, a tra poco. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Slitta il Consiglio dei Ministri su autostrade, manca l'accordo sulla revoca, spunta l'ipotesi commissariamento. In arrivo il nuovo DPCM per il contrasto all'emergenza. Fino al 31 luglio, ok ai troll, in volo, mascherine solo al chiuso. Le mani dell''Ndrangheta sui fondi contro il Covid, 8 arresti in Lombardia. Coronavirus, guariti e di nuovo positivi. Secondo due studi l'immunità dura pochi mesi e potrebbe favorire il ritorno del virus. Ne parliamo tra poco. e 15 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. È con noi Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, per commentare la notizia che sentivate anche dal sommario, due studi collegati tra di loro, uno del King's College, uno studio italiano che fa base a Treviso, uno pubblicato sulla rivista B&J Global Health, si concentra sul tema dell'immunizzazione di un individuo dopo aver contratto il coronavirus. Cosa succede dopo la prima infezione? Si sviluppano gli anticorpi? Quanto durano? Sono protettivi? Domande tutte strettamente legate anche all'attesa per un vaccino. Purtroppo i ricercatori danno una risposta negativa, perché chi si è ammalato una volta correrebbe il rischio di reinfettarsi, favorendo addirittura reinfezioni più gravi. Questo perché, professor Clerici, c'è un meccanismo, un fenomeno noto che facilita un secondo ingresso del virus proprio attraverso l'immunità acquisita con la prima infezione. Ci spieghi di cosa si tratta e come, diciamo, è possibile che questa scoperta ribalti in qualche modo quello che fino a qua in qualche modo si era ritenuto verosimile, no? La malattia, certo. Il virus, la guarigione, gli anticorpi e una eventuale protezione. Che succede adesso? Allora, precisiamo che in tempi non sospetti, stiamo parlando di aprile, già sottolineavamo come poco si sapeva su questa infezione e quindi sullo sviluppo dell'immunità che il virus avrebbe potuto stimolare nel nostro organismo. Noi facevamo sempre l'esempio della SARS e della MERS, dove con la SARS sappiamo per dati certi che l'immunità o quantomeno la presenza di anticorpi nell'organismo non durava più di 24 mesi nei casi migliori, per cui ci aspettavamo una risposta analoga. Purtroppo i dati adesso ci dimostrano come anche a breve distanza, ma in alcuni individui, gli anticorpi tendono a scomparire entro 3 mesi. Purtroppo o per fortuna queste pubblicazioni che sono comparse ieri su riviste autorevoli riguardano però pochi casi, per cui dovremmo avere sicuramente un campione più robusto di alcune decine di migliaia di pazienti colpiti dal Covid che hanno avuto anticorpi che successivamente a dei prelievi che andremo a fare manifestano scomparso o meno, per dire sì, si va in questa direzione. Certo, questo è un campanello d'allarme, perché se quello che è stato scritto venisse confermato anche in studi successivi, vorrebbe dire che anche per il vaccino bisogna rivedere un attimino la sua struttura. Professore, è fondamentale. Certo, i ricercatori, in particolare quelli italiani, abbiamo letto che sono partiti cercando di spiegarsi anche alcune evidenze che collimerebbero con questi risultati, sì, che appunto non sono positivi, in qualche modo sono una cattiva notizia, però ogni, diciamo, passo in più nella comprensione di questo virus in realtà poi è un fatto positivo. Si spiegherebbe, per esempio, e le faccio questa domanda, perché i medici, anche giovani, si sono infettati, perché in modo anche grave, forse proprio a causa di, diciamo, di queste seconde infezioni, una volta aver avuto questa prima immunità. E al contrario, è vero che invece per quanto riguarda i bambini, che non hanno per definizione tutta una serie di anticorpi che gli adulti hanno, non avrebbero aperto le porte a questa, diciamo, infezione più grave. Perché c'è un meccanismo, certo. Sì, perché c'è un meccanismo quando vi sono anticorpi che si legano a determinate cellule che può agire come una serratura che apre o chiude l'ingresso del virus quando si ripresenta alla cellula. Probabilmente alcuni anticorpi danno la possibilità alle cellule di aprirsi al virus e quindi ecco perché se c'è stata un'infezione pregressa si è più esposti, altri anticorpi non danno questa possibilità. Sicuramente chi non ha anticorpi, come i bambini, non hanno certamente la possibilità di aprire le cellule, soprattutto polmonari, all'ingresso del virus e quindi alla distruzione delle cellule stesse. E ci troviamo di fronte a una situazione che è paradigmatica, cioè quello che dovrebbe essere un meccanismo di difesa si trasforma in un meccanismo d'attacco, ma non è sicuramente una novità, però questo è un virus che stiamo studiando da 4 mesi, queste cose, ecco, noi su altri virus le abbiamo scoperte dopo anni. Dopo anni. Questo potrebbe essere valido per alcuni individui, lei diceva, perché i test, cioè questi, diciamo, studi sono relativi a poche persone, ma diciamo, lei cosa si aspetta? Che questo sia una regola che valga per tutti o per alcune persone, no, in base ad altri fattori genetici o da studiare? Esatto, bisogna tipizzare sicuramente dal punto di vista genetico, ma anche delle comorbidità che un paziente presenta, la tipologia sicuramente, perché ognuno risponde in maniera diversa. Non dimentichiamoci che nella popolazione normale presa così random, sì, c'è un buon 3% che non risponde assolutamente agli stimoli infettivi o alle vaccinazioni, i cosiddetti non responder. per cui questi già sono esclusi. In più dovremmo individuare negli altri se il sistema immunitario funziona in un certo modo piuttosto che in altro. Ed è quello che costantemente noi facciamo. Magari tutti ci comportassimo nello stesso modo. Sarebbe tutto più semplice. Sarebbe più semplice per voi che dovete studiarlo. Senta, assolutamente sì. Professor Clerici, un'altra questione è quella dei ceppi, dei cosiddetti ceppi, perché abbiamo sentito in questi giorni il presidente del Veneto, Zaia, per esempio, esprimere preoccupazione per il ceppo serbo del virus, sì. Poi si è parlato di un cluster legato al Bangladesh, non so se anche in questo caso si parla di un ceppo di virus. Fino ad ora però abbiamo saputo che il virus, sapevamo, non era mutato, non aveva cambiato pelle più di tanto. Cosa significa invece questo concetto di ceppo diverso e più virulento? Allora, quando noi andiamo a tipizzare i microrganismi, quindi andiamo a determinare nel codice genetico, troviamo di norma nel tempo, anche nelle settimane successive alla prima comparsa, delle piccole mutazioni all'interno del proprio codice genetico, che però non influiscono sulla virulenza, sulla patogenicità. Probabilmente questo virus isolato da pazienti serbi ha delle mutazioni più importanti che lo rendono diverso, e la cosa che più ci preoccupa nell'analisi dei dati, indipendentemente dalla tipologia che poi andremo a definire meglio del ceppo, è che colpisce le fasce giovani di età, mentre quello che noi abbiamo avuto nel Bergamasco, nell'Odigiano, in Italia in genere, colpiva gli ultra settantenni preferibilmente, questo si attesta sui quarantenni. È questo che ci preoccupa del ceppo serbo. Grazie professor Clerici, e naturalmente ci sarà ancora da tornare su queste scoperte, ma anche sulla questione del ceppo. Grazie, buon lavoro. Adesso invece vogliamo tornare sulle elezioni in Polonia, le elezioni che hanno portato alla vittoria del presidente uscente. Il dissenso cresce soprattutto tra i giovani, l'analisi di Daniele Biacchessi. I polacchi hanno scelto di non cambiare. Ancora una volta alla guida del paese torna il leader populista Duda. I risultati elettorali si rispettano, ma l'alternativa europeista proposta dal sindaco di Varsavia, il liberale Tsarkowski, era ghiotta. E molti cittadini l'hanno anche seguita, visto i dati finali, 51.2 contro 48.8. Ma il vero vincitore di questa consultazione è ancora una volta Kaczynski, il leader del partito conservatore Diritto e Giustizia, PiS, ormai al governo dal 2015. Lui ha sostenuto la rielezione di Duda per ultimare le riforme del suo esecutivo, come quella del sistema giudiziario che mina lo Stato di diritto in Polonia. Anche la Chiesa polacca si è schierata con Duda e ha spinto i fedeli a votare per il candidato che condivide i valori cristiani. Nella sostanza, per dirla con le parole di Stefan Frankiewicz, ex ambasciatore presso il Vaticano, amico personale di Papa Wojtyła, la Chiesa polacca ha voluto così difendere i suoi privilegi nel sistema attuale, rinunciando alla missione pastorale e alla costruzione di una società più aperta al dialogo. Con Duda, la Polonia è più isolata in Europa. I muri politici e culturali restano tutti, ma ai polacchi piace così. Piace l'idea di uno Stato forte centralizzato, attaccato ai valori tradizionali. Adesso vi vogliamo raccontare una piccola notizia che però non vogliamo lasciar cadere nel vuoto, perché potrebbe essere una questione di mala giustizia da verificare. Ne parliamo con l'avvocato Renzo Fogliata, presidente della Camera Penale Veneziana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo di motivazione di sentenze uscite prima della loro diffusione ufficiale, sentenze copincollate da un anno all'altro. È la realtà che voi in qualche modo denunciate, chiedendo anche l'invio di ispettori al Tribunale di Venezia, anzi alla Corte d'Appello di Venezia. Perché che cosa, Fogliata, avvocato Fogliata, che cosa siete venuti a conoscenza e che cosa avete denunciato? Allora, doverosamente intanto premetto che l'azione di richiesta al Ministero e di accertamenti è un'azione congiunta di tutte e sette le Camere Penali del Veneto, cioè è un'azione di un intero distretto di Corte d'Appello, di una regione intera, quindi non della Camera Penale Veneziana e basta. Io sono, diciamo così, il portavoce. Va bene, chiarito questo? È accaduto quanto segue, che in l'udienza del 6 luglio in Corte d'Appello, una determinata sezione, ad alcuni avvocati, ad un avvocato è stata anticipata via PEC e ad un altro avvocato, un'avvocatessa invece, è stata rivelata attraverso il fascicolo, anziché essere trasmessa, rivelata la relazione, faccio una premessa, la relazione secondo il codice dovrebbe essere orale, sì, ma da qualche tempo la Corte d'Appello ha preso questo, per me, malvezzo di adottare la prassi della relazione scritta per guadagnare tempo. Anziché la relazione è stata inviata ad un collega via PEC ed è stata invece depositata nel fascicolo per l'altra collega una sentenza già scritta. Sentenza, attenzione, non stiamo parlando, come ho sentito dire e ho letto, di bozze di lavoro. Stiamo parlando di una sentenza intestata in nome del popolo italiano, nome e cognome dell'imputato, reato. Quindi prima della sua diffusione e con dei copia e incolla dentro, che voi avete ritrovato da una sentenza precedente. In alcuni casi c'è un copia e incolla, per altri c'è proprio la sentenza decisa riguardante quel caso. Da intestazione al dispositivo senza Senta, la discussione. Avvocato Fogliata, le chiedo uno sforzo di sintesi, magari non semplice per un avvocato in particolare, però glielo chiedo perché abbiamo davvero un minuto. Di cosa si tratterebbe secondo voi? Di sciatteria, di scarso approfondimento del singolo caso? Oppure voi dite in qualche modo di un giudizio che si precostituisce? Ecco, allora, premesso che è tutto da accertare fino in fondo, se fosse così come sembra, cioè una sentenza già scritta, se fosse una sentenza già scritta prima del giudizio, e l'ha già detto, è un giudizio precostituito, ma che guardi, fa venir meno i principi stessi dello Stato di diritto e anche, se vogliamo, il senso della giurisdizione, perché a questo punto possiamo anche abolire la presenza dell'avvocato, abolire l'appello, facciamo atti scritti, non esiste più il processo penale orale e la chiudiamo qua. Staremo a vedere. Grazie intanto all'avvocato Fogliata per aver sollevato questo caso. Noi adesso facciamo una piccola pausa alle 13:28 minuti, torniamo tra poco dopo le informazioni di borsa, vi racconteremo la storia di un dipendente di una RSA licenziato perché ha denunciato comportamenti illegittimi e naturalmente procedimenti giudiziari ancora aperti, ma cercheremo di capire di più questa storia che riguarda la Dognocchi di Palazzolo. A tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Slitta il Consiglio dei Ministri su autostrade, manca l'accordo sulla revoca, spunta l'ipotesi commissariamento. In arrivo il nuovo DPCM per il contrasto all'emergenza fino al 31 luglio, che trolla in volo, mascherine solo al chiuso. Negli Stati Uniti, dopo 17 anni, la Corte Suprema autorizza una esecuzione federale. Calcio Serie A dopo il 3-1 dell'Inter sul Torino, stasera Atalanta-Brescia. minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666. Sconcertante la diversità di opinioni e prese di posizione degli scienziati senza valutare l'impatto mediatico, dice questo ascoltatore. È vero, poi sempre chiederci se è meglio sapere più cose possibile, essere informati e rischiare magari un po' di confusione, oppure rimanere all'oscuro di tutto. Questo, dice un ascoltatore, un altro, a questo punto il vaccino non serve a niente, vogliamo dirlo, oppure se un vaccino crea gli anticorpi con il nuovo studio ci stanno dicendo che rischiamo di più. Effettivamente questa questione è aperta, di vaccini ce ne sono di vario tipo. Naturalmente, se questa scoperta fosse confermata, bisognerà andare nella direzione di un vaccino utile e non inutile, o addirittura dannoso, va da sé. Adesso vi raccontiamo una storia, quella di Amala Diop, che è uno dei lavoratori della cooperativa Ampast che forniva personale all'istituto Palazzolo Dognocchi, una casa di riposo per anziani, finita poi al centro di inchieste e per la quale Amala adesso non lavora più. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi, Amala. Buongiorno. Allora, la premessa doverosa è questa: c'è un'inchiesta, ci sono dei procedimenti giudiziari su questo, perché la Palazzolo Dognocchi, come altre RSA, tra cui il Pio Albergo Trivulzio, che è salito agli onori delle cronache, sono al centro delle indagini della Procura sui contagi e le morti in queste case di cura. Ce ne sarebbero a decine per quanto riguarda le due strutture di Palazzolo e Girola per quanto riguarda la Fondazione Don Gnocchi. A un certo punto, Amala, tu sei uno di quelle persone che ha denunciato, sollevato dei comportamenti. Poi la storia è andata a finire come abbiamo raccontato. Tu non lavori più per la Ampast, e questo è anche un po', diciamo, ci dice come non dovrebbe andare a finire una storia del genere, perché se c'è una casa di riposo con delle persone, arriva il Covid, vengono attuati dei comportamenti ritenuti sbagliati, delle persone li denunciano, e poi a finire che va a pagare la persona che ha denunciato, con la premessa che ci sono delle inchieste. Amala, tu quando ricevi diciamo la notizia che non lavori più per Ampast e per il Don Gnocchi? Io l'ho ricevuto il 6 di maggio, mi è arrivata la lettera a casa con scritto che ero stato licenziato per certi motivi. Per quali motivi? C'era scritto qualcosa di preciso? Sì, che ho divulgato la denuncia e che praticamente sono comparso, che ho parlato con i giornalisti. E questa è la motivazione, perché in qualche modo avresti, diciamo, sporcato il nome, avresti, diciamo, contribuito a diffondere delle notizie che non andavano diffuse, questo? Sì, ma io, ad esempio, cioè loro mi hanno accusato di questo, però io non è che ho divulgato la denuncia. Ok, sono comparso in diversi telegiornali, ma alla fine ho raccontato soltanto la mia esperienza. La tua esperienza. E tra l'altro, ripeto, inchiesta in corso, procedimenti giudiziari in corso, anche per quanto riguarda la richiesta dell'avvocato di riammetterti al lavoro, o comunque, insomma, di risolvere questa tua situazione. Però sono denunce, sono dichiarazioni che sono state fatte nei mesi bui del Covid da parte di tante persone, in particolare per quanto riguarda le RSA, che hanno contribuito poi, come dire, a rimettere in pista anche delle situazioni, perché c'erano stati comportamenti sbagliati che voi operatori avevate denunciato. Tu in particolare, per esempio, e i tuoi colleghi, perché non eri l'unico a sollevare queste critiche, che cosa avevate detto che non andava al Don Gnocchi? Ma tutto quello che noi abbiamo detto a loro non gli va bene. Ogni cosa che abbiamo dichiarato non va bene per loro. Però alla fine noi siamo tranquilli per il fatto che sappiamo che stiamo dicendo la verità, che non ci sono stati forniti i DPI e c'è stato vietato l'uso del dispositivo di protezione. E questo era quello che era emerso anche per quanto riguarda il Pio Albergo Trivulzio, cioè che all'inizio alcuni operatori era stato detto non usate la mascherina perché altrimenti le persone si spaventano. È questo che hanno detto anche a voi, è questo quello che è successo? Esattamente, era proprio per quello, per non spaventare l'utenza, che in quel periodo entravano comunque i parenti nel Don Gnocchi. Voi avete denunciato, è una denuncia che avevamo raccolto anche noi, proprio di Radio 24, che voi operatori non sapevate che c'erano persone positive e chi erano e quante erano all'interno della struttura, è così? Sì, perché praticamente a noi è arrivata tramite il nostro gruppo di WhatsApp del reparto, è arrivato un documento con scritto che eravamo stati a contatto con qualcuno di positivo. Ma questo documento a noi è arrivato il 14 di marzo e il documento era stato aggiornato al 10 di marzo, quindi vuol dire che è una cosa che era già successo prima, e da lì noi abbiamo iniziato a preoccuparci tutti quanti, perché comunque in quei giorni lì, a inizio marzo, vedevamo che il medico, il caposala facevano riunioni con alcuni della cooperativa, però dopo queste riunioni qua a noi non veniva detto nulla, e dopo che abbiamo ricevuto il documento del 14 lì ci siamo preoccupati molto, perché avevamo capito che l'avevamo preso tutti, e avevamo capito che anche che un nostro collega del reparto era stato ricoverato. E non vi dicevano nulla? No. Fino a quel punto non vi dicevano nulla. Senti, Amala, tu alla luce di quello che poi è successo, il fatto che comunque hai perso il lavoro, Don Gnocchi ha esercitato, io leggo il virgolettato, il diritto di non gradimento nei confronti della cooperativa, ritenendo la presenza di alcuni dei lavoratori all'interno della struttura incompatibile e inopportuna, perché avevano appunto espresso giudizi gravi e calunniosi. Rifaresti queste denunce che hai fatto? Sì, assolutamente sì. Perché? Assolutamente sì, perché sono cose che a me non stanno bene personalmente, né a me né anche ai miei colleghi che hanno denunciato questa cosa. E sappiamo che stiamo dicendo la verità, non ce lo stiamo inventando. Un conto sarebbe stata una persona che lo racconta così, ma non siamo solo una persona, siamo un gruppo, un intero reparto che lo sta dicendo. E vorrei invitare soprattutto anche gli altri colleghi che lavorano lì al Bognocchi ad uscire fuori a dire la verità, perché lo sanno ben loro, lo sanno benissimo ciò che ci hanno fatto passare. E quindi adesso dovrebbero assumersi le loro responsabilità e venirne fuori. Grazie intanto Amala Diop, in bocca al lupo per il tuo futuro naturalmente. Grazie mille, grazie a voi. E va bene, alle 13:41 minuti invece facciamo una incursione in questa lunga estate di calcio. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Ecco, intanto, ma come vanno gli ascolti, per esempio, TV delle partite? Si è discusso un po', no? Non benissimo, anche a causa insomma di orari abbastanza anomali. In alcuni casi. E poi anche il fatto che davvero c'è calcio tutti i giorni, tutte le sere. Ieri sera si è chiusa verso mezzanotte la 32esima giornata di campionato con la vittoria dell'Inter 3-1 rimonta, sì, sul Torino. Inter che dunque arriva al secondo posto, e oggi si apre la 33esima con Atalanta-Brescia stasera 21:45, domani tutte le altre partite. Dunque vedi che insomma qualche volta magari c'è un po' da scegliere, no? C'è molto da scegliere sul programma serale. Notizia di oggi: Atalanta che stasera, si è saputo oggi, stasera non avrà Muriel perché incidente domestico per lui, è accaduto in casa, non si sa molto della situazione, ha battuto la testa, è stato ricoverato precauzionalmente in ospedale, niente di particolarmente grave, però Muriel out. Va bene, grazie Carlo. Pomeriggio sportivo che come sempre benissimo inizia alle 14 con Carlo Genta e compagni. 13:43 minuti quasi, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con Effetto Mondo e Giulia Crivelli. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.